10. Ascolta e completa il testo con i relativi. Mirella, la signora che abita di fronte a noi, ha 3 gatti. Tutte le mattine li chiama e li fa mangiare. Il gatto che arriva per primo è Silvestro. Poi arrivano Nino e Rocco, che stanno sempre insieme. Quando i gatti hanno finito di mangiare, si mettono a giocare e camminano sulle macchine che sono parcheggiate vicino a casa. Le impronte che lasciano sulle macchine sono piccolissime. A mia figlia piace molto vedere le piccole impronte che restano sul cofano.